La storia di una bottega di Amy Levy, edizioni Jo March. Capitolo 1. L'inizio. A Camden Hill sorgeva una grande casa, tinta di un grigio spento, circondata da un giardino di parecchi acri cinto da muro. Non apparteneva a un particolare ordine di architettura e suggeriva un'idea di comodità, più che di magnificenza, con le sue grandi finestre e le sue disarmoniche e indescrivibili proporzioni. Sul lato, costruita a parte dalla casa, c'era una grande struttura in vetro, originariamente destinata a una serra. Quella mattina di aprile di cui scrivo, l'intero complesso aveva un aspetto desolato e smantellato, mentre alle finestre e sulla parte esterna del muro del giardino erano affissi cartelloni in bianco e nero, che annunciavano una svendita di beni che avrebbe avuto luogo esattamente una settimana dopo. L'aria di desolazione che aleggiava sulla casa si era estesa in qualche maniera al giardino, dove gli alberi luccicavano per la fioritura o erano velati dal tenue verde delle giovani foglie. Forse quell'idea di tristezza era suggerita, o perlomeno accentuata, dalla patetica figura che lentamente percorreva in su e in giù il viottolo ghiaioso proprio davanti alla casa. La figura di una giovane donna, snella, non alta, col capo scoperto e con indosso abiti che rivelavano un lutto stretto. Finalmente smise di camminare e per un momento rimase in piedi, come ad ascoltare, con la faccia rivolta verso il cielo. Gertrude Lorimer non era una bella donna, eppure l'aspetto gradevole che possedeva variava di giorno in giorno, pressoché di ora in ora, ma una certa personalità ed eleganza la contraddistinguevano in ogni sua disposizione d'animo e la affrancavano da una possibile accusa di ordinarietà. Aveva una fronte arcuata, come l'avevano un tempo le donne di Leonardo da Vinci, occhi miopi, bocca e mento espressivi. Mentre stava in piedi, nella piena luce del sole primaverile, con il viso pallido e stanco per il dolore recente, appariva forse più vecchia dei suoi 23 anni. Scostando dalla fronte i capelli, che sebbene non fossero tagliati corti sulla fronte, tendevano a scompigliarsi sul viso, e passando una mano sugli occhi con un movimento che esprimeva un misto di ansia e decisione, raggiunse con rapidità la porta della serra, l'aprì ed entrò. L'interno della grande struttura in vetro avrebbe riservato una sorpresa a uno sconosciuto con l'aspettativa di palme e orchidee. Era stata attrezzata come lo studio di un fotografo. Nella stanza erano sparse qua e là numerose macchine fotografiche, tutte di diversa misura. In un angolo c'era un grande fondo di tela bianca, sul soffitto erano state collocate delle tendine per far entrare o schermare la luce, e vase di colla, bottiglie, torchietti da stampa, fotografie in vari stadi di finitura. Un'indefinita quantità di scarti disseminata da un capo all'altro della stanza. In piedi, fra questi materiali, vi era una ragazza di circa 20 anni, bella, esile, dritta come un fuso, con uno sguardo sveglio e al contempo calmo. Le due giovani creature, nei loro abiti scuri, si fecero incontro, poi esitarono un momento e si strinsero in silenzio. Era la prima volta che entrambe tornavano nello studio da quando quell'imprevedibile calamità le aveva colpite, una calamità che sembrava loro così imperscrutabile, così innaturale, così incredibile, pur essendo un fatto abbastanza consueto. Una repentina perdita di fortuna, seguita nell'immediato dalla morte del padre, schiacciato dal duro colpo che si era abbattuto su di lui. «Lucy», disse alla fine la più grande, «sono solo 2 settimane». «Non so», rispose Lucy guardando la stanza, i cui dettagli familiari le apparivano ora odiosamente strani. «Non so se sono 100 anni o un giorno che ho messo quel ritratto di Phyllis nel torchietto da stampa. Hai parlato con Phyllis?» «No, ma vorrei farlo subito, e anche con Fanny. Eccole!» Altre 2 figure vestite di nero entrarono dalla porta che collegava lo studio alla casa e andarono a comporre un mesto gruppetto al centro della stanza. Frances Lorimer, la più grande sorellastra delle altre tre, era una bella donna robusta di 30 anni che aveva un po' le sembianze di un'enorme bambina di altri tempi. Aveva un viso largo, con lineamenti piccoli e insignificanti, e sopracciglia appena accennate che parevano stupite. La sua carnagione un tempo era stata di un incantevole bianco e rosa, ma quelle tinte si erano accentuate e un rosso dozzinale colorava ora le grandi guance. In quel preciso istante, con i piccoli occhi chiari, rossi per il pianto, e le sopracciglia accigliate più che mai, pareva il ritratto di un dolore senza conforto. Era entrata mano nella mano con Phyllis, la più giovane, alta e graziosa delle sorelle, un'esile creatura di 17 anni, dall'apparenza delicata, che crescendo aveva perso ogni energia. La bimba coccolata dall'intera famiglia, in virtù della giovane età, della costituzione debole e del fascino. Gertrude fu la prima a parlare. «Ora che siamo tutte quante insieme», disse, «è l'occasione buona per discutere dei nostri piani. C'è una grande quantità di cose da considerare, come sapete. Phyllis, faresti meglio a non rimanere in piedi». Phyllis lasciò cadere il corpo arrendevole sulla poltrona, che era considerata di una speciale proprietà, e Fanny si sedette su una sedia, mentre si asciugava gli occhi con il fazzoletto orlato di nero. Gertrude incrociò le mani sulla schiena e appoggiò la testa al muro. I grandi occhi grigi di Phyllis, con la loro espressione per metà malinconica e per metà divertita, passavano lentamente da una all'altra. «Adesso che siamo tutte riunite», disse, «dobbiamo solo aspettare che Lucy ci metta a fuoco». Era una battuta effettivamente insignificante, eppure tutte risero, persino Fanny. Nessuna di loro aveva più riso da 2 settimane e a questa riaffermazione di giovinezza e salute i loro spiriti risposero con inaspettata rapidità. «Ora, Gertrude, svelaci i tuoi piani», disse Lucy, con quel suo tono sicuro e quell'aria calma e risoluta. Gertrude giocherellava nervosamente con una copia del The British Journal of Photography che aveva in mano e iniziò a parlare con esitazione, quasi scusandosi, come chi disapprova qualsiasi approvazione indebita di potere. «Sapete che il signor Graham Shaw, l'avvocato di nostro padre, è stato qui la notte scorsa», disse, «e che lui e io abbiamo avuto una lunga conversazione riguardo ai nostri affari». «Era rammaricato, Fanny, che tu stessi troppo male per scendere. Mi ha chiarito la nostra situazione economica. Siamo davvero, davvero povere. Quando ogni cosa sarà sistemata, quando il mobilio sarà venduto, stima che ci resteranno circa 500 sterline, forse qualcosa in più, forse qualcosa in meno». I toni femminili e delicati di Fanny interruppero le parole della sorella. «C'è la rendita di 50 sterline che mi ha lasciato mia madre. Sono certa che l'accetterete tutte volentieri». «Sì, cara, certo», disse Lucy battendole bonariamente una spalla, mentre Gertrude si morse il labbro e rispose: «Non possiamo vivere a lungo con 500 sterline, ve ne rendete conto? Ci sono tante persone molto generose. Lo zio Sebastian ci ha inviato un telegramma perché 2 di noi si trasferiscano in India. La signora Devonshire offre ad altre 2 di noi una casa per tutto il tempo che vogliamo. Ma credo che vorremmo tutto tranne che accettare queste gentili offerte. Mi sbaglio?» «No, di certo», esclamarono Lucy e Phyllis in coro, mentre Fanny perdurava in un mite e consenziente silenzio. «La questione rimane», continuò l'oratrice. «Cosa possiamo fare? C'è l'insegnamento, naturalmente. Potremmo trovare un impiego come istitutrici, ma saremmo svantaggiate, sprovviste di certificati e senza esperienze di alcun tipo, e dovremmo separarci». «Oh, Gertrude», si lagnò Fanny, «tu potresti scrivere. Tu scrivi così meravigliosamente. Sono sicura che potresti fare la tua fortuna scrivendo». Il volto di Gertrude abbampò, ma controllò tutti gli altri segnali dell'irritazione che la povera sventurata Fan era tanto solita provocarle. «Ci ho pensato, Fanny», disse, «ma non posso permettermi il lusso di aspettare e bussare alle porte degli editori con la fila di persone con più esperienza e più mestiere di me. No, è un altro il piano che ho da proporre a tutte voi. C'è una cosa almeno che tutte noi siamo in grado di fare. Sappiamo tutte fotografare, tranne Fan», disse Phyllis con voce incerta. «Esattamente», esclamò Gertrude, animandosi sempre di più, mentre camminava al centro della stanza. «Sappiamo fotografare e abbiamo ereditato questo studio con attrezzature adatte per la luce e per tutto il resto. Non siamo certo semplici dilettanti. Perché non dare una svolta in base all'unica cosa che sappiamo fare e cominciare a lavorare come fotografe professioniste? Così resteremo tutte unite. Può essere un rischio, ma se falliamo avremo ben poco da perdere. Conosco già l'opinione di Lucy in proposito. Voi che ne dite? Gertrude, è necessario arrivare a questo, aprire una bottega, piagnucolò Fannino, ridita. Fanny, non sei al passo coi tempi, disse Lucy senza riguardo. Non sai che è di grande distinzione avere una bottega, che poeti vendono carta da parati e onorevoli uomini di prim'ordine vendono lampade, e che le studentesse del Girton fanno cappellini e nessuno pensa il peggio di loro per questo. Io credo che sia un'idea assolutamente splendida, gridò Phyllis tirandosi su. Saremo come quel bravo ragazzo di Lena Bab. A dire il vero, spero che non saremo come André, disse Gertrude sedendosi sulla poltrona accanto a Phyllis e abbracciandola, specialmente perché nessuna di noi probabilmente scriverà tragedie di successo a titolo di risarcimento. Voi due state diventando frivole, rimarcò Lucy severamente, e ci sono così tanti aspetti da considerare. Prima di tutto, rispose Gertrude, voglio convincere Fanny. Pensa a tutti gli espedienti meschini a cui le donne, le signore, si sono generalmente abbassate per guadagnarsi da vivere. Ma un'impresa, quanto è diverso! È una creatura che progredisce, è una creatura in grado di crescere. Le esatte caratteristiche di cui il lavoro delle donne è spaventosamente privo. Abbiamo messo a punto un buon numero di dettagli, andò avanti Lucy, che possedeva meno immaginazione della sorella, ma aveva una percezione più chiara di quali argomenti avrebbero meglio incontrato il favore di Fanny. Questo progetto non impegnerebbe tutto il nostro capitale, abbiamo già molte cose. Abbiamo pensato di comprare qualche buona piccola attività, come quella pubblicizzata ogni settimana sul British Journal. Ma di certo non faremo nulla di avventato, non senza aver prima consultato il signor Grimshaw. Non per avere il suo consiglio, puntualizzò Gertrude, ma per provvedere a ogni nostra transazione. Gertrude e io, continuò Lucy, faremo il lavoro e tu, Fanny, se vorrai, sarai la nostra governante. E io? Esclamò Phyllis con i grandi occhi che scintillavano. Camminerei là fuori, avanti e indietro, con quell'uomo in High Street che ogni giorno non fa che ripetermi quale splendido ritratto mi farebbe. Le nostre fotografie saranno così belle, le nostre maniere così affascinanti, che la nostra fama andrà da un capo all'altro della terra, aggiunse Lucy. Lucy con un improvviso abbandono di quel suo modo di fare austero e pedante. Faranno tutti la fila la domenica per prendere il tè del pomeriggio nello studio, duchesse, ministri del governo e signor Irving. Detteremo la moda, faremo una fortuna colossale e alla fine sposeremo dei duchi, concluse Gertrude. Fanny alzò gli occhi, disorientata e scettica. L'entusiasmo di queste giovani creature non era riuscito a toccarla. In un momento simile, l'esplosione dei loro spiriti le pareva semplicemente scioccante. Come aveva detto Lucy, Francis Lorimer non era al passo coi tempi. Un vero anacronismo, appartenente di diritto all'epoca in cui le giovani signore suonavano l'arpa, portavano i boccoli e avevano crisi isteriche. Vivendo, muovendosi, avendo quel modo di essere in mezzo a tre paia di giovani occhi inquisitori e davvero moderni, la povera Fan non poteva permettersi né questi né altri simili piaceri, ma andava avanti per la sua strada, con una vaga e indistinta sensazione di offesa, un chiodo rotondo e sentimentale nell'anima squadrata e scientifica della seconda metà del XIX secolo. Ora, che il lieve tumulto si era placato, si avventurava una volta ancora a intervenire. Era quello il lato peggiore di Fan. Non c'era modo di affrontarsi in uno scontro leale e di tirar fuori qualcosa da lei. Avresti potuto meglio combattere con un letto di piume. Convinta in tutta apparenza, un momento. Il momento dopo sarebbe tornata al punto di partenza con quella mite ma implacabile ostinazione che ha un debole. Suppongo che voi sappiate, disse, facendo ancora una volta ricorso al fazzolettino orlato di nero, cosa penseranno tutti. Saranno tutti assolutamente contrari. Questo lo sappiamo, certo, disse Lucy con l'innocente presunzione dell'ardore giovanile. Fortunatamente la discussione venne interrotta a questo punto dal sonoro gong che annunciava il pranzo. Fanny si affrettò ad andare a sciacquarsi gli occhi. Gertrude corse di sopra a lavarsi le mani e le due ragazze più giovani indugiarono insieme per qualche momento nello studio. Mi domando, disse Phyllis con l'assoluto e sconsiderato cinismo della gioventù. Perché Fan non si è mai sposata? Lei possiede proprio le esatte qualità che gli uomini trovano desiderabili in una moglie e in una madre. Povera Fan, non lo sai, rispose Lucy. C'è stato un uomo una volta, secoli fa, ma era povero e se n'è dovuto andare. E Fanny non vorrebbe nessun altro. Questa era la versione che Lucy dava di quella vecchia storiella d'amore di poco interesse. La delusione di Fanny, a cui l'eroina stessa amava fare qualche allusione vaga e un po' patetica. Fanny non vorrebbe nessun altro, aveva detto la sorella, ma forse c'era un motivo diverso alla radice della sua costanza e di molta costanza femminile simile alla sua. Ma se Lucy non aveva detto che nessun altro aveva voluto Fanny, Phyllis, che era più giovane e spietata, scelse di prendere l'affermazione nella formulazione inversa. Asserzione che comunque sia né lei né io né voi lettori abbiamo giustificate basi per fare. Avevo sentito di questo fatto prima, naturalmente, rispose lei, ma il seguito della conversazione sull'argomento venne tagliato bruscamente dall'apparizione della stessa Fanny, venuta ad ammonirle di andare nella sala dove il pranzo era già stato servito in tavola. Il vecchio Kittle, il maggiordomo, le aspettava come al solito e non c'era nulla nel tipo di portate a suggerire il mutamento della loro condizione. Eppure fu un pasto triste, coronato dal dolore dei dolori, il ricordo dei giorni più felici. A tutte sembrava di vedere il defunto padre al suo posto vuoto, come era stato solito sedere fra loro, affascinante, allegro, debonair. L'anima della festa. Che si divertiva non meno alle spensierate sortite delle figlie che se stessi ben oliati epigrammi. Un uomo brillante tanto quanto era stato manchevole, tanto poco capace di far fronte alle dure prove dell'esistenza, quanto sconsiderato nell'attaccarle. Oh, ragazze, disse Fanny quando la porta venne alla fine chiusa dietro Kittel. Oh, ragazze, ci ho pensato su. Se solo le circostanze fossero state altrimenti, se solo le cose fossero andate in maniera un poco diversa, avrei avuto una casa da offrirvi, una casa dove sareste potute venire tutte. Sopraffatta da questa visione dell'eventualità, dalla resurrezione del suo morto e sepolto sarebbe potuto essere, la signorina Lorimer cominciò a singhiozzare piano. E i poveri occhi, che tante volte si erano già bagnati per queste pene, traboccarono, inondando le gote striate che venivano lavate ancora una volta. Non posso farci nulla, non posso farci nulla! Si lamentava questo volano della sorte, facendo appelli ai giudici giovani e austeri che le sedevano attorno. Un appello che, se debitamente considerato, sembrerà essere anche più pietoso dell'attacco di emozione del quale esso era la causa. Gertrude si alzò dalla sedia e abbandonò la stanza. Phyllis rimase seduta a seguire la scena con i suoi bellissimi occhi, come al solito fissi. Lucy soltanto, posando una mano fredda sulle dita roventi della sorellastra, pronunciò parole di conforto e di buon senso.